already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. It was truly an historic day here at the White House. President Bush is describing the meeting with the president-elect as friendly. He said the two discussed. E allora ieri un altro passo è stato fatto. Pare che la mattina Obama abbia accompagnato le figlie a scuola perché è tempo di scuola. Poi abbia fatto la sua immancabile sosta in palestra perché adesso per lui finalmente è tornato a essere tempo di palestra. E poi è andato all'aeroporto e è volato a Washington. Tra l'altro è volato come un comune cittadino, un comune mortale, è volato più o meno, come voleremmo noi, perché in questo momento è decaduto il suo diritto, no, a utilizzare il jet della campagna elettorale, il suo, l'Obama Jet, quello con scritto sopra Change, e naturalmente di montare sopra l'Air Force One non se ne parla neppure, e non è che Bush l'ha mandata a prendere, per cui ha volato con un volo dell'American Airlines in prima classe, insomma, almeno questo gliel'hanno concesso, ed è andato alla Casa Bianca insieme a Michelle. Si è tenuto l'incontro, che gli americani hanno osservato con molta curiosità. Si è svolto in maniera molto cordiale, è stato in buona parte dedicato a un quartetto, no? Ai vecchi inquilini che fanno vedere la casa ai nuovi inquilini. C'è stato il vero e proprio giro della casa, no? Si sono mostrati gli appartamenti privati, la famosa stanza di Lincoln riservata agli ospiti. Le signore si sono intrattenute per un po', e poi i maschietti se ne sono andati nello studio ovale. Tra l'altro, per la cronaca, Obama era stato già una mezza dozzina di volte alla Casa Bianca, ma non aveva mai messo piede dentro lo studio ovale, che più tardi ha definito un ufficio molto molto molto molto confortevole, e saremmo stupiti del contrario. Pensate che il primo incontro alla Casa Bianca con Bush, lui lo descrive nel suo libro L'audacia della speranza, no? Avvenne nel 2005, in quello che nelle sue parole stesse era un freddo pomeriggio di gennaio, e quella volta Obama notò che la Casa Bianca, vista dal di dentro, vista coi propri occhi, aveva un po' un'atmosfera cupa, diversa da quella, no, che si intuisce nei film hollywoodiani. Scrisse: ben tenuta, sì, ma in fin dei conti una vecchia grande casa, di quelle che si immaginano piene di spifferi. Secondo me questa volta gli è piaciuta un po' di più. Oh, c'è stata, come detto, molta forma. Tra l'altro l'accoglienza di Bush, uno che crede no, al club dei presidenti, crede al fatto che se un collega politico, come nella fattispecie Barack Obama, ci è arrivato, è entrato a far parte di questo ristrettissimo circolo. Quindi l'accoglienza è stata molto cordiale, affabile, e a un certo punto i due hanno parlato anche un po' di affari. In realtà c'era una questione sul tavolo, c'era una cosa di cui Barack Obama voleva provare a intavolare il discorso con George W. Bush, pur assecondando il suo punto di vista, ampiamente ribadito da Rahm Emanuel, dal suo portavoce, che c'è un presidente degli Stati Uniti alla volta, e fino alle 8 del mattino del 20 gennaio il presidente degli Stati Uniti si chiama George W. Bush e i poteri sono nelle sue mani, quindi nulla può essere fatto, qualcosa forse può essere giusto accennato. È quello che ha provato a fare Barack Obama, chiedendo a Bush di assumere una posizione attiva, in sostanza di mettere mano al portafoglio federale sulla questione delle case automobilistiche americane, che versano in una situazione terribile, devastante. C'è chi parla addirittura di una General Motors talmente in difficoltà da interrogarsi sulle sue possibilità di sopravvivenza, ma ci sono tra veri e indotto qualcosa tipo 3 milioni di posti di lavoro in ballo. Per cui ha spinto sull'argomento Obama in questo incontro allo studio ovale con Bush, dicendo: visto che tocca a te, fai qualcosa, muoviti, cerca di intervenire. Bush ha fatto sapere che potrebbe appoggiare alcuni aiuti e un più ampio pacchetto di stimoli. Ormai siamo abituati a utilizzare questa parola, stimoli economici, un neologismo che è entrato rapidamente nel lessico di tutti i giorni. Se Obama e i democratici al Congresso, cioè un se Obama e i democratici al Congresso faranno cadere l'opposizione all'accordo di libero scambio con la Colombia, provvedimento per il quale, per l'appunto, George Bush si è lungamente battuto. L'amministrazione Bush, che ha promosso un cospicuo intervento a favore delle imprese finanziarie, si è opposta a consentire all'industria automobilistica, scrive un'agenzia americana, di attingere ai 700 miliardi di dollari di fondo di sostegno recentemente stanziati, malgrado la General Motors abbia dato segni di non poter sopravvivere, forse neanche fino alla fine dell'anno. Né Obama né i leader del Congresso sono però disposti ad avallare con Bush il patto colombiano, al quale i democratici si oppongono per le violazioni dei diritti umani denunciati nella Colombia di Uribe, e dovranno quindi probabilmente, e questa è la conclusione del discorso, attendere il famoso fatale 20 gennaio, quando Obama assumerà a tutto titolo il potere e le sue decisioni saranno quelle che contano. Intanto in America, intanto l'America vibra, naturalmente c'è l'America che somiglia in questo un po' all'Europa, l'America dei VIP, l'America di Hollywood che non sta nella pelle. I told my kids that I'd never been a part of anything quite like it in my lifetime. Potevamo farvi sentire Angelina Jolie, ma siccome siamo degli inguaribili snob, vi facciamo sentire solo Dustin Hoffman. Questa sentiamo ancora. Spazio Dustin. Hopefully, well, an extraordinary man who maybe really do something transformational. E qui lo tagliamo perché si sta sbrodolando dicendo quanto è eccezionale, un'esperienza di vita irripetibile vivere nell'America di Obama. Insomma, siamo un po' negli effetti collaterali, no? Nel giorno dopo della sbornia obamiana, l'America si sta abituando a questa prospettiva tutta da descrivere e alla base della quale poi invece ci sono tanti discorsi di carattere più strutturale, più politico, che andranno fatti. Per esempio, alcuni molto interessanti stanno cominciando a paragonare il compito, ma anche le posizioni di Barack Obama a quelle di Franklin Delano Roosevelt, e su questo ci sarebbero ragionamenti interessanti che nei prossimi giorni potremo proporvi. Ma poi c'è anche una parte cronachistica pura e semplice, che ci fa sapere che Michelle, per esempio, una volta che Barack Obama è tornato a Chicago, Michelle è restato in città, si è occupata di cercare la scuola giusta per Melia e Sasha, le due bambine di 10 e 7 anni della coppia. Non si sa ancora se sarà una privata, forse la Georgetown Day School, una delle scuole private più liberal della capitale, forse una pubblica. Michelle, che ha detto chiaramente che vuole fare la mamma a tutti gli effetti, sta scegliendo. Tra l'altro, per i nostri numerosissimi ascoltatori intorno ai 10 anni, vi informo che Sasha e Melia sono state anche invitate ad apparire nella popolare serie TV Anna Montana, prodotto dalla Disney. Non si sa se accetteranno, secondo me no, naturalmente. Chi non monta sul carrozzone di Obama? Sicuramente ci monta anche Anna Montana. E poi, prima di concludere con le parole di Ahmadinejad, anzi no, le parole di Ahmadinejad ve le dico subito, la stampa iraniana ha approvato il messaggio di congratulazioni inviato da Ahmadinejad al presidente eletto degli Stati Uniti. È il primo messaggio di questo tipo inviato da un leader iraniano a partire dal 79, l'anno della crisi degli ostaggi all'ambasciata americana, ricorderete. Secondo il quotidiano governativo Khorshid, il messaggio di Ahmadinejad smentisce l'errata visione americana secondo cui il presidente iraniano non è aperto al mondo. Insomma, c'è un vaghissimo tentativo di dialogo. Obama comunque lo scorso venerdì ha confermato di aver ricevuto il messaggio, ha detto che risponderà in modo appropriato, ma ha anche detto che un Iran dotato della bomba atomica è inaccettabile. Oh, infine, siccome so che non ci dormite, torniamo alla questione del cane alla Casa Bianca. I presidenti hanno un cane che li accompagna e scodinzola attorno a loro. Io vi ricordo cani famosi come Checkers, il cane di Nixon, quello che si disse avergli addirittura salvato la vita. Vi ricordo Buddy, il Labrador dei Clinton, che andava d'amore e d'accordo con Sox, il gatto dei Clinton, probabilmente pagati entrambi per fingere di andare effettivamente d'accordo. Vi ricordo Barney, il simpatico Fox Terrier di George W. Bush, che però un bel giorno si scocciò e fece un bel morso a un giornalista, che fece immediatamente causa. Qui c'è il problema delle figlie di Obama, che hanno vinto insieme alla presidenza del padre il diritto di avere un cucciolo alla Casa Bianca, ma c'è un problema di allergia e quindi tutto il mondo si è mobilitato per trovare il cane giusto. Adesso il cane giusto è stato trovato, io sono andato a vedere anche come è fatto e vi garantisco che è mostruoso. Si chiama Cane Nudo del Perù, è un cane anche senza denti, quindi non pericoloso, non morderà i giornalisti, però vi garantisco che vedere la coppia Obama con bambine che arriva nel Giardino delle Rose della Casa Bianca accompagnato da un cane nudo del Perù, francamente è uno spettacolo che io sconsiglio a Barack Obama e rinnovo il consiglio di prendere la strada che aveva intuito, si pigliasse un bel bastardino. Non sia mai detto che non facciamo finire da solo a Eric Clapton, che poi magari qualche vecchio fan si arrabbia. Si litiga ancora in Minnesota, dove il giornalista Al Franken aveva posto la sua candidatura, e tutt'altro che risolta, ci sono accuse di frodi, tutt'altro che risolta l'elezione. Lui e il senatore Norm Coleman si stanno disputando il seggio, ormai sono arrivati a 200 seggi di differenza, sono voti che spuntano da sotto le sedie, sotto gli armadi, sotto i tappeti. Il termine è il 19 novembre, ma c'è già chi evoca la Florida 2000. Prima pagina. Allora, veniamo alle notizie dalla Cina, perché domani, esattamente 12 novembre, sono 6 mesi dal terremoto del Sichuan. Sì. Quindi riapriamo una triste pagina, una pagina dolorosissima, con 80.000 morti in quel sisma terribile di metà maggio. A 6 mesi possiamo dire che la ricostruzione procede molto lentamente e ci sono ancora 18.000 abitanti della regione che sono dichiarati tecnicamente e ufficialmente dispersi. C'è poi una bella dichiarazione di Francis Marcus, che è l'addetto stampa regionale della Croce Rossa e della Mezzaluna, alle agenzie italiane, che dice: il quadro che si ha oggi qui è complicato e molto vario, si può passare da zone di campagna dove si vedono già delle case in buona fase avanzata di ricostruzione, poi ci sono delle situazioni in cui invece la gente vive ancora temporaneamente in prefabbricati, e poi delle zone più remote con ancora migliaia di tende, quindi situazioni veramente difficili. Tra l'altro sta arrivando l'inverno e quindi insomma la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi. Secondo una stima del governo cinese pare che ci vogliono 250 miliardi di dollari, quindi una cifra molto significativa, molto importante, per ricostruire la zona che, ricordo, il 12 maggio venne colpita da questo terribile terremoto. Una notizia a margine del successone di Barack Obama è il probabile passo indietro che Howard Dean farà non ricandidandosi alla guida del Partito Democratico. La rinuncia di Dean era attesa dopo la vittoria di Obama, essendo consuetudine che i nuovi presidenti cerchino di portare al vertice del partito uomini a loro molto vicini, e non è il caso di Dean. Si è anche fatto, tra l'altro, il nome di Howard Dean per una possibilità di posto di lavoro all'interno della nascente amministrazione, per la precisione nel Dicastero della Salute, anche per la sua esperienza come medico. Lo riferisce il New York Times, che dice anche che Dean non avrebbe avuto interesse a proseguire il suo mandato avendo al suo fianco un presidente democratico che ne potrebbe oscurare l'immagine nei prossimi anni. Come dire che aspettiamo un annetto e mezzo, due, vediamo come vanno le elezioni, si fa due calcoli, intanto si comincia a posizionare. Tiriamo fuori uno degli scheletri nell'armadio della storia recente della Cina, forse il più scomodo, e cioè la strage di piazza Tiananmen, ormai quasi 20 anni, 1989, giugno se non sbaglio di quell'anno, perché ieri è morto all'età di 82 anni l'ex dirigente cinese Li Siming, che era considerato uno dei più accesi sostenitori della linea dura, quindi della repressione della protesta degli studenti. La notizia è arrivata attraverso le agenzie, oggi la riportano tutti i più importanti quotidiani cinesi, c'è la solita freddezza quasi asettica in questi comunicati da parte degli organi di informazione cinesi. Si ricordano anche le altre cariche che ricopriva Li Siming, che era vicepresidente del comitato permanente dell'ottavo congresso nazionale del popolo, cioè il più importante organo legislativo cinese, ed era già stato in passato, proprio ai tempi della rivolta e della protesta soppressa nel sangue di piazza Tiananmen, ed era stato capo del partito proprio comunista a Pechino. Diamo invece ora una notizia di carattere economico. Ieri abbiamo parlato del maxi intervento da quasi 600 miliardi che il governo cinese prevede per dare nuovo stimolo, nuovo impulso alla comunque confortante situazione economica cinese. Non c'è certo il problema di recessione che affligge l'Italia, la vecchia Europa o gli Stati Uniti. No, tra l'altro, per chi non l'abbia sentito, l'intervento di Luca Vinciguerra a riguardo è stato molto interessante. Ha fatto dei distinguo con l'America. Dei distinguo molto netti e molto precisi. Qui si tratta di intervenire addirittura in modo quasi prematuro, per mantenere uno slancio che stava lentamente andandosi un po' smorzando. Insomma, ma siamo in diciamo che lo scricchiolio dell'economia cinese è che invece di correre a 10-12% all'anno si fermerà quest'anno sull'8-9, quindi esatto. Insomma, beati loro. Però come effetto forse di questa situazione che sta comunque cambiando, forse dobbiamo anche un po' uscire da quegli stereotipi della corsa cinese forsennata che ci ha accompagnato negli ultimi anni, c'è l'inflazione che sta calando decisamente. Infatti, secondo i dati di ottobre, si è attestata al 4% su base anno, dopo il 4,6% di settembre. In particolare stanno calando i prezzi degli alimentari. Poi tra l'altro tra pochissimo sentiremo anche un intervento del nostro amico Daniele Barbone, che ci parlerà del latte contaminato, però en passant, così tra una chiacchiera e l'altra, ci ha spiegato che stanno anche diminuendo i prezzi degli immobili, soprattutto a Shanghai, dove sono alti quasi ai livelli di una capitale europea o americana. Insomma, dopo essere saliti del 15% in un anno, forse anche su questo fronte si stanno dando una regolata. Non trova pace Sarah Palin, che all'indomani, mentre John McCain è sparito, e immaginiamo anche perché, sta riprendendo fiato dopo uno straordinario sforzo prodotto, faceva 10 comizi al giorno prodotto in coincidenza con la campagna. Infatti, invece, Sarah Palin non trova pace, rilascia lunghe interviste televisive che tra l'altro continuano ad ottenere alti indici d'ascolto, piacciono, il personaggio è indubbiamente rimasto nell'immaginario americano, e ieri ieri nel corso di una conferenza dei governatori repubblicani, associazione governatori repubblicani che si è tenuto in Florida, lei che è tornata a fare la governatrice dell'Alaska, ha detto di aver ben presente la prospettiva di una corsa per la Casa Bianca 2012. Qui siamo alle candidature. Un po' premature, poi prima. All'indomani di una sonora sconfitta, avrei forse atteso un attimo. Ieri si parlava di Newt Gingrich, che ha fatto sapere di essere interessato, peraltro si sta già generando un pannello di nomi. Però forse alla Palin il dente grande... duole più di McCain, diciamo così. Forse per quello, ma insomma, intanto si deve ancora insediare il presidente eletto, su cui tra l'altro arrivano anche dei messaggi molto stimolanti riguardo a quei paragoni con Roosevelt, ma insomma sono argomenti che avremo modo nei prossimi giorni di affrontare. I could be your sea of sand, I could be your warmth of desire, I could be your prayer of hope, I could be your gift of every day, I could be your tide of heaven, I could be a hint of what's to come, I could be ordinary, I could be the one, I could be a blue-eyed angel, I could be the storm before the calm, I could be a secret pleasure, I could be a well-wishing well, I could be a breath of life, I could be a European dream, I could be ordinary, I could be the one. Well, the current state is that because of President Bush's policy that was issued in August in 2001, federal funding can be used on a very, very limited amount of human embryonic stem cell research. So what that has done is restrict and delay significantly. Quella che sta parlando si chiama Amy Rick ed è una esponente della coalizione per il sostegno della ricerca medica, traduciamo. Abbraccio che si è espressa nelle ultime ore sull'onda onda apparente, naturalmente ancora teorica, perché come abbiamo detto più volte tutto ciò che succede attorno alla Casa Bianca in questo momento e fino al 20 gennaio è di pertinenza del suo legittimo inquilino George W. Bush. Quello che Obama dice di voler fare è per ora da limitarsi a livello di propositi, sono indicazioni, come è capitato nella visita di ieri, può cercare di intercedere, no? Si parlava di industria automobilistica, in questo caso si parla di ricerca sulle cellule staminali. C'è una posizione chiara da parte della campagna di Obama, ovvero di tornare a incentivare, a sostenere questa ricerca a fronte, come diceva appunto Amy Rick pochi secondi fa, di una stretta, no? Di una sterzata, di una limitazione molto robusta che alla ricerca è stata data dalla amministrazione Bush. Ma la notizia sta ricevendo continui aggiornamenti. Escono agenzie proprio in questi minuti, ad esempio Si viene a sapere che il no all'uso delle cellule staminali embrionali vale per tutti ed è quindi rivolto anche agli Stati Uniti, ed è quanto ha ribadito il presidente del Pontificio Consiglio per la Salute, il cardinale Javier Lozano Barragán, rispondendo a una domanda riferita alla revisione delle norme in materia ventilata dal nuovo presidente eletto dagli Stati Uniti, Barack Obama. Il cardinale ha però precisato, come un po' tutti, di non conoscere a fondo la posizione del futuro inquilino della Casa Bianca, ma in un certo senso il Vaticano sta mettendo le mani avanti. Noi abbiamo in linea, in diretta, Ignazio Marino, senatore del PD, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che lui stesso chirurgo specializzato in trapianti d'organo con esperienze di studio e di lavoro negli Stati Uniti. Si sta sintonizzando naturalmente con attenzione su questo tema, Marino, perché la sensazione credo generale sia che sarà al centro della luce dei riflettori nelle prossime giornate. Marino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Insomma, questo botta e risposta, questo accenno, come diciamo, puramente teorico di Obama, a cui è sembrato arrivare, no, un jab molto, molto diretto da parte del Vaticano, come lo interpreta? Bisogna innanzitutto dire che negli Stati Uniti, così come in Italia, vi è una situazione, direi, quantomeno bizzarra dal punto di vista scientifico per quanto riguarda la ricerca sulle cellule staminali di origine embrionale, perché negli Stati Uniti l'amministrazione Bush ha autorizzato la ricerca sulle cellule staminali embrionali con fondi privati. I fondi privati sono molto consistenti, non devo certo ricordare, certo, che la maggior parte delle università americane sono università private, certo, e quello che invece è proibito è fare ricerca sulle cellule staminali embrionali con fondi pubblici. In Italia non è vero che non è possibile fare ricerca sulle cellule staminali embrionali, è proibito prelevare cellule staminali embrionali in Italia, ma è possibile per ricercatori italiani sul suolo italiano fare ricerca con cellule importate dall'estero. Allora io pongo un problema molto chiaro nel dire che non conosco qual è il percorso etico migliore, però sono certo che l'etica non passa per il tipo di denaro che viene utilizzato, cioè non possiamo avere, certo, un'etica di un certo un tipo, doppio binario, certo. Se usiamo denaro, certo, pubblico, e un'etica, certo, di un altro tipo se usiamo denaro privato. Io credo che un chiarimento fa bene il presidente eletto Obama a annunciare che ci sarà un chiarimento su questi temi. E la presa di posizione del Vaticano non è un po' prematura? Che cos'è? Un rialzo della guardia in attesa di mosse che del resto... Il cardinale Barragán ha un compito che ancora, se mi permette, è più, certo, difficile di quello del presidente Obama. Deve educare le coscienze come vescovo di tutto il pianeta, questo, uh-huh, è formare le coscienze, quindi è un compito molto, molto più ambizioso e molto più complesso. La posizione della Chiesa è chiara, l'embrione non può essere utilizzato a scopo di ricerca. Ora, forse un problema che io, il cardinale Barragán lo sa bene, ho posto più di una volta, addirittura l'ho posto inizialmente in un libro che si intitola Credere, Curare, che ho pubblicato con Einaudi nel 2005, in cui ho proprio detto: io non so la risposta, ma perché non ci interroghiamo sul fatto se gli embrioni abbandonati debbano essere lasciati morire nel freddo dei loro congelatori o possano essere utilizzati, così come accade per la donazione degli organi, per donare delle cellule che possano potenzialmente essere utilizzate per studiare il percorso per arrivare a salvare altre vite. Lei, in un certo senso, la questione etica la rimanda al mittente, se posso dire. Insomma, è una domanda, no? Nel senso che credo che non ci sia, certo, assolutamente, certo, nulla di male a interrogarsi se è meglio non dico aprire la strada, perché sarei in disaccordo anch'io, a una sperimentazione sull'embrione, non è questo quello che sto proponendo, penso che si è capito, ma se piuttosto che abbandonare gli embrioni e lasciarli morire nel freddo non potesse essere considerata in alcune circostanze l'ipotesi di utilizzare delle cellule preziosissime che potrebbero rivelarsi davvero straordinariamente utili per aiutare il genere umano. Ecco, questa è una domanda, io davvero non pretendo di conoscere la risposta. Marino, per concludere, ci aiuti a capire, al di là così degli entusiasmi naturali che si sollevano quando sembra che qualche cosa ricominci o che qualcosa riparta, ma la presa di posizione del presidente eletto Obama e ciò che ne potrebbe nascere, quindi un incremento di ricerca su tempi ragionevoli, a quali per noi comuni cittadini, a quali vantaggi, diciamo così, potrebbe approdare? Beh, certamente noi in questo momento non abbiamo fatto sufficientemente ricerca per poter vedere se ad esempio le cellule staminali embrionali possono guarire malattie come il Parkinson o l'Alzheimer. In Italia abbiamo quasi 900.000 persone ammalate di malattie come l'Alzheimer. Certo. È chiaro che l'impatto di una terapia efficace su queste malattie sarebbe davvero un evento straordinario. Ma credo, ecco, per concludere, che il presidente Obama affronterà questi temi, perché non è una sorpresa, l'aveva detto con chiarezza nella sua campagna elettorale. E poi, ecco, va detto anche questo, che anche tra i repubblicani c'è una maggioranza a favore della ricerca sulle cellule staminali, e tant'è vero che il presidente Bush è dovuto intervenire con un veto perché il Congresso avrebbe già votato in direzione della ricerca. Grazie, sì, effettivamente Bush è una delle cose su cui si è battuto più duramente anche all'interno del Congresso. È una di quelle cose che potrebbero rientrare in una così contrattualistica cavalleresca nel caso si moltiplicassero, ma non è detto, gli incontri tra il presidente uscente e quello subentrante Barack Obama. Altrimenti, anche per questa questione, come ci ha gentilmente e in modo competente illustrato Ignazio Marino, tocca aspettare il 20 gennaio 2009, scusate. Qui vanno le notizie del traffico e io mi fisso sulla foto del cane nudo del Perù e non riesco a farmene una ragione. Guardate che adesso, non so, gli animalisti si arrabbieranno con me, ma è bruttissimo. Tra l'altro ha delle gambe lunghissime. Io sconsiglio, un appello alla famiglia Obama, lasciatelo stare. Se serve il cane analergico, non so, passate per altre strade, ma sto cane nudo del Perù nel giardino della Casa Bianca, no. Parecchi messaggi in relazione all'intervento di Marino, alle notizie relative alla ripresa caldeggiata da Obama della ricerca sulle cellule staminali embrionali e i dissapori crescenti con il Vaticano, espressi anche ufficialmente nelle ultime ore. Sono in parecchi a dirlo. Non c'è nulla di logico, non si usano i soldi dei contribuenti contrari agli esperimenti sugli embrioni, mentre il privato che non ha problemi, sceglie cosa fare dei propri soldi. Marino, questo è un messaggio contro Marino. Marino è fuori strada e lo dico da favorevole alla ricerca sulle staminali embrionali. O ancora altri messaggi: ma è possibile che la Chiesa Cattolica si senta in diritto di entrare nella vita altrui sempre e comunque? Il libero Stato in libera Chiesa, pazzesco, scrive questo ascoltatore, si firma V. Poi ci chiedono di quale Roosevelt parliamo, parlavamo di New Deal, insomma di Franklin Delano, ma parecchi messaggi su Roosevelt, evidentemente si sono accesi così degli interessi in relazione a questo paragone. Uno spazio cinese si va ad aprire orora perché torna un amico di Jefferson Ming, si chiama Daniele Barbone, l'avete ascoltato innumerevoli volte dai nostri microfoni, è il direttore BPSEC, un'azienda che si occupa di controllo qualità dei prodotti dalla Cina all'Europa. Sono passati 2 mesi esatti dall'esplosione, dal boom, no, dello scandalo del latte alla melamina, e c'è una notizia di oggi: l'azienda cinese maggiormente coinvolta si chiama Sanlu, a noi non dice niente, ma come verrete a sapere tra poco è invece un nome di primissimo piano, è a un passo dal fallimento. Chiediamo lumi quindi a Daniele Barbone, che ci offre dettagli sulla situazione assai critica di questa azienda e più in generale del settore in Cina. Le autorità di controllo hanno imposto il ritiro di tutta una serie di prodotti che già la Sanlu aveva collocato sul mercato, e questo ha imposto il ritiro di un equivalente di 100 e oltre milioni di dollari di prodotti che erano già stati posti in commercio, e questo ha creato un gravissimo danno economico alla Sanlu. Ma a questo poi si sono aggiunte tutta una serie di iniziative da parte dei familiari dei bambini che erano stati oggetto di delle situazioni dannose con riferimento all'utilizzo di questi prodotti, e quindi sono partite una serie di cause da parte di singoli cittadini e di gruppi di cittadini tramite studi legali che hanno messo in fortissima difficoltà la Sanlu, che si trova oggi nella condizione, anche per notizie ufficiali che circolano sui media cinesi, probabilmente di trovarsi nella condizione di non poter far fronte a quelle che sono tutte queste situazioni che gli si sono aperte. Una delle cose che abbiamo anche saputo è che, ad esempio, in alcune delle fabbriche della Sanlu gli operai non vengono più pagati da un paio di mesi. Daniele, possiamo dare qualche dimensione della Sanlu, cioè far capire le dimensioni di questa azienda? Quante persone in Cina a questo punto possono rischiare davvero di perdere il posto di lavoro? Beh, la Sanlu è un'azienda che è una joint venture innanzitutto, e quindi è costituita e da operatori cinesi ma anche da operatori stranieri che hanno investito delle cifre pesantissime dentro questa realtà. Gli stabilimenti sono molti, gli ultimi realizzati sono nello Shandong, nello Henan, nella Nui. E allora facciamo un parallelo con l'Italia, chiediamo a Daniele se sono immaginabili aiuti di Stato, no? Cordate di imprenditori, scioperi dei dipendenti, insomma è pensabile con questa Sanlu un caso all'Italia ma in Cina? Da un lato noi sappiamo che l'idea che ci facciamo noi dei cinesi, che non protestano mai, che non scioperano mai, che non si lamentano mai, è un'idea che non è poi così corretta. Chi vive in Cina sa che talvolta ci sono iniziative, ci sono scioperi, ci sono manifestazioni, seppure in una dimensione che non è quella di questi giorni che si vive in Italia per i fatti che prima venivano accennati. Può essere che ci siano azioni di questo tipo, sta di fatto che l'azione conseguente non sarà di certo di una copertura da parte delle autorità pubbliche. Ci sono altri operatori, in questo senso il mercato cinese è darwiniano, e quindi per un operatore che salta ce ne sono altri che crescono. 2 giorni fa il governo cinese ha annunciato questo piano imponente di quasi 600 miliardi di dollari, esattamente 586, per stimolare la crescita economica di un paese che non è certo in recessione come la Cina, ma che forse vede rallentare un po' la sua crescita impetuosa degli ultimi anni. Tu che sei un operatore nel mercato cinese, come hai accolto questa notizia, questa iniziativa, e cosa credi possa portare? Ma questo non è l'unico comparto che ci fa pensare che la reazione da parte degli operatori e delle autorità cinesi sarà una reazione sicuramente di dimensioni importanti. Seguivamo anche nel recente passato le iniziative che vuole mettere in campo le autorità cinesi, ad esempio per quanto riguardano gli investimenti necessari per la protezione dell'ambiente. Anche lì parliamo di molti miliardi di euro di interventi nei prossimi 5 anni. Tutto questo è probabilmente un motore che terrà viva l'economia della Repubblica Popolare Cinese. I dati degli ultime settimane indicano che è vero, le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti e il mercato europeo sono rallentate, ma altrettanto non è successo ad esempio per quanto riguarda i consumi interni. Quindi aumenteranno le importazioni forse? Potranno aumentare le importazioni e se vogliamo la dinamica che sta anche si è innescata nelle ultime settimane per quanto riguarda la valuta euro in questo momento ci sta anche un po' dando fiato perché evidentemente si è scesi a 8 e qualche cosa yuan contro euro contro un valore che magari fino a qualche mese fa superava i 10. Ma di fatto lo scandalo del latte ha comunque portato effetti positivi in Cina, ecco che Daniele Barbone ce li spiega. C'è un primo limite che è comparabile al nostro, che è di 2,5 mg per chilo nel latte liquido, mentre invece c'è un limite ancora più restrittivo che hanno imposto le autorità di controllo cinese per quanto riguarda tutti i prodotti che vanno nell'industria dei neonati e per questi il limite che è stato imposto è di 1 mg/kg di melamina per chilo di prodotto e quindi il limite è stato ancora ristretto ulteriormente rispetto agli standard che vigono da noi qua in Europa. Questo perché per i bambini è più pericolosa la somministrazione della melamina? Esattamente, perché la quantità di melamina necessaria per chilo di soggetto vivo che se ne fa carico attraverso l'alimentazione, nel caso dei bambini si raggiungono più facilmente le soglie tali per cui l'effetto può essere dannoso, cosa che invece negli adulti non può succedere perché il peso dell'adulto è molto alto, è sopra i 50 kg, 60 kg e quindi ci vorrebbe un numero di litri di latte molto alto, mentre invece nei neonati che pesano pochi chili la quantità di latte che deve essere utilizzata per poter raggiungere delle soglie di pericolo è molto più bassa. E grazie a Alex Obama, ringrazia Alex che ti dà il consiglio giusto, fatti un bel cirneco dell'Etna, ma quale nudo del Perù, cane che non ci piace, questo invece è un cane nobile, è il cane dei faraoni, abbiamo fatto una ricerchetta grazie al consiglio di Alex e ci sembra un'ottima scelta. Segui il nostro consiglio, consiglio di Jefferson Ming, dove ci sono io che sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte, Jefferson Ming è tradio24.it, in replica stasera alle 9, in diretta domani alle 4 qui da Radio 24.